di malocchie. Buonasera, compagni di merenda, non ci sentivamo da un po'. Molto bene, iniziamo questa lunga puntata di Baby Radio. Innanzitutto voglio scusarmi con voi che magari abbiamo perso un po' di tempo. Abbiamo perso un po' di tempo ultimamente a causa di un... Ho avuto uno spiacevole episodio. Allora, innanzitutto ho dovuto sgomberare la sede di via Sebastiano Sello 3.G. E poi ho avuto un problema a livello personale. Un problema che mi costringe a tirare continuamente la saliva, come se fosse uno scovolino dentro le mie labbra. Perché ho avuto... Io non faccio mai propaganda contro, però questa volta vi dico che l'abuso di sostanze, io soprattutto sono, a me piace farmi, quindi purtroppo è il sistema nervoso che se ne sta un po' andando a puttana. Di conseguenza l'invito che do ai più giovani è: continuate con i barili d'olio, continuate a portare spacciatori, a fare i cavalli per gli spacciatori, che è sempre una cosa importante, ma cercate di farvi le analisi e preservate il vostro fisico più che potete. Detto questo, dopo che vi chiedo scusa, ora non siamo più in via Sebastiano Serlio, ma per questi ultimi mesi, prima dell'arrivo della primavera di Kendall, trasmetteremo dal nostro amico. Finalmente abbiamo avuto modo di... io, Ode e Antonio Lupolo siamo venuti a casa di Alessandro Ciccarelli e Resonance DJ, che ci ha ospitato, ed è una casa veramente bella. C'è anche sua mamma che ci ha fatto pane e panelle. Abbiamo mangiato bene qua a Palermo, le stigliole, abbiamo mangiato delle pillole marroni e bianche, penso sia mescalina, Viagra, non lo so, dopo la provo e vi saprò dire come sono. Queste sono le pillole di Alessandro, un po' di MD mi sa anche, e un cazzo. Bene, grazie Alessandro, ci farà anche la... ci farà partire gli stacchi lui direttamente, quindi è tutto live, frequenza free, siamo l'unica radio libera. Di che cosa si voleva parlare oggi? Oggi volevamo parlare di cosa sta succedendo un po' nel mondo. Io ultimamente, ve l'ho detto, ho avuto problemi di salute, quindi non sono riuscito a guardare il notiziario. Qua a Palermo la situazione dei compagni è... siamo veramente a un livello tragico, nel senso che non ci sono più carceri, sbilò. Facciamo partire lo stacco, poi parleremo della situazione un attimo qua di Palermo, quindi andiamo col primo pezzo diretto. Collegati alla Zisa di nuovo, amici di Baby Radio, sempre a casa di Resonance DJ che ci sta accompagnando con il suo set musicale. Qua manca la carta igienica, no? Ricordo, siamo con Antonio Lupolo, Ode, che purtroppo dobbiamo fare le condoglianze. Oggi è una puntata un po' triste, uno per il mio problema appunto di boccarola, ho preso veramente troppo freddo, e anche perché ha avuto un lutto Ode, è morto il suo cagnolino Squizzo, e ci aveva accompagnato nelle puntate. Era un cane spelacchiatissimo, proprio classico cane del compagno, ha fatto 20 anni nelle prigioni con noi anche lui, e l'abbiamo portato alle manifestazioni anti-TAV. Quindi ciao Squizzo. E allora sono le 10:47. Radio Città del Capo, come direbbe il nostro Giovanni Gandolfi, è fatta. Cosa è fatta? Beh, ormai lo sapete, il dado è stato tratto, il demo contest di Radio Città del Capo è giunta alla conclusione. Avete votato in tanti e in tante, questo ci fa molto piacere. E siamo alla fine arrivati a nominare la trasmissione vincitrice. Volevamo fare questa puntata, è dedicata a Radio Città del Capo. Questa radio free, che si spaccia come Radio Free di Bologna, dove passa la musica, le nuove tendenze, che dà spazio ai giovani, che dà spazio alla solidarietà, alla collettività, alla in realtà è una radio autoctona fatta da gente borghese che vuole stare bene e hanno degli studi non arrabbazzonati come noi qua, per esempio la Zisa in via delle Miro, loro stanno a Bologna, penso in zona Massarenti. E c'è da dire che ci hanno rifiutato. Cosa vuol dire? Noi potevamo diventare, ma e qua poi ci scappa il morto, cioè qua nel senso, ve lo ricordate Biagi? Il Fatto Quotidiano? No, quello non è Biagi. Biagi ha preso dei bussolotti perché ha fatto morire della gente con le sue riforme sul lavoro. Noi qua non riusciamo più a lavorare, perché io non è che guadagno, non guadagno facendo queste cose, devo fare dell'altro. Radio Città del Capo ha rifiutato, ma e ripeto, da un certo deontologicamente potrebbe anche andare bene, perché noi siamo free, noi siamo una frequenza free e vogliamo rimanere così. Avevamo semplicemente chiesto che ci venisse fornito uno spazio dove poter H24 proporre in podcast la nostra radio, No, Resonance mi sembra anche giusto, perché rifiutare? Perché rifiutare? Come vi dicevo, Radio Città del Capo ha scartato appunto la nostra candidatura. La cosa non ci spaventa più di tanto, perché noi vogliamo rimanere una radio free, no? Ode, sempre una radio libera. E si è spento. No, no, va, vecchio, c'è il coso rosso. Scusate, perché qua siamo affaccendati qua la Zisa. Volevo ringraziare ancora Resonance per l'ospitalità. Volevo ringraziare anche una ragazza marocchina che ieri ci ha deliziato con della speed, dicendo che fosse coca. Quindi poi parleremo anche della situazione coca, cocaina e speed qua a Palermo, perché qua con 100 euro ti fai, ieri ci siamo fatti tutti, siamo stati benissimo. Per la verità Ode si è fatto anche oggi. E comunque volevo lanciare un contributo della nostra amica James, Genezia marocchina, Alessandro, cosa ne pensi di... cioè, ti sei divertito ieri? Che cos'è che ti ha lasciato Genezia? Oh, così, uomo, e qua stasera abbiamo due DJ Resonance. Alessandro ai piatti, il migliore in Italia, San Palermo, la castagna, cucucaca marocchina. Non avere paura, non ti faccio niente, non è patata, dico. Io penso solo a merce rara, e questa sera ho veri shit marocchino con gli giugi. No, no, veramente, e qua è quando si è fatta anche lei. Quindi il contributo di questa ragazza è stato molto molto importante. Ieri ci ha lietato la serata, abbiamo conosciuto anche Rocky Marciano e tutta una serie di ragazzi di Palermo molto simpatici. E volevo un attimo approfondire prima di riparlare di Radio Città del Capo, grazie a, anche all'aiuto di... Dobbiamo chiamare una festa delle medie? Porto gli astucci, sai che con me io sono main Gucci. Sicuramente sono situazioni importanti. Io chiedo scusa per il mio problema di scovolino, mi è venuta la... problema di boccherola, anche perché qua ci sono 20 gradi. La sera mia madre si lamenta che non mi metto la camicia e la cravatta, però uso il dopo passo, ma la menta. Qua la coca costa poco, magari è tagliata, perché io me ne rendo conto, però costa veramente poco. Costa veramente poco, e pensa che qua c'è gente che si lamenta. I ragazzi qua sono abituati bene. Cioè, uno dice vieni al nord, vai a Torino a prenderla, vai a Fiuggi. E vai a Bologna stessa, piena di cavalli, ma insomma ti portano sempre a cercare di guadagnare loro. Qua con 40 euro ti prendi due pezzi. Cioè, Stefano Infostrada qua farebbe... Ma infatti poi ci verrò con Solieri, con l'ingegner Solieri, perché penso sia un paradiso per chi è amante poi della bianca. Insomma, io sono più avvezzo a utilizzo di... sempre di roba, ma quella coca... Sicuramente la coca è buonissima qua. Bene. Tutte le volte che... No, Alessandro, tu cosa ne pensi un attimo del... Ho cambiato la carta d'identità talmente tante volte che ho cambiato la mia scadenza. Anziché 5 anni, adesso è leggibile che la mia scadenza sarà tra 50 anni, perché l'ho leccata. Ci metti. Alessandro, dimmi un attimo della situazione qua della coca. Cioè, cosa ne pensi della coca? Cioè, cosa pensi nel senso della coca intesa come prezzi qua? Sono abbordabili, ci si impacca di più, di meno? Io ti posso parlare della mia situazione del nord, sempre quel che concerne la situazione coca. È stato importante anche questo contributo di Alessandro, direi. Prima di riparlare, perché poi i nostri compagni di merenda magari si stufano di sentire sempre le stesse cose, attacchiamo di qua, attacchiamo di là. Noi siamo rimasti senza sede, non abbiamo più una sede, l'abbiamo sgomberata, abbiamo dormito io, Ode e il suo cagnolino Squizzo per l'ultima volta nella sede. Mi sto per commuovere con la stufetta alogena, la dovevo ancora togliere, ce l'abbiamo lì. Siamo stati malissimo sotto delle coperte di flanella infiltrite. Qua a Palermo ci sono 25 gradi, si sta bene, noi ci trasferiamo qua. Palermo vita, io amo Bologna, la mia città, noi siamo bolognesi, ma però Palermo ti ospita. Costa un cazzo, mangi, oggi è Santa Lucia, abbiamo mangiato le arancine, abbiamo conosciuto ieri una ragazza metà scozzese, metà vegetariana, e... è stupendo, ci si può innamorare tutte le sere di qualsiasi roba, di tutto. Cioè io non mi sposterei da qua, mi sposerei forse. Se mandate una festa, e qua parliamo di una cosa un po' leggera che comunque c'entra con col nostro credo, alla bravo, esattamente, Antonio, la festa di Kendall c'è stata ieri, eravamo credo in zona Piazza Politeama e c'era questa festa di Kendall dove c'erano i fruttariani, Sakineman, tutti tutti i ragazzi insomma che suonavano del reggae, della dub, e abbiamo preso contributi anche ieri dalla festa, perché noi portiamo a fare informazione, noi puntiamo sull'informazione. Oh no, Antonio, cioè come cosa ne pensavi della festa ieri? Cioè, bella storia. Il Kendall è rappresentato bene qua a Palermo, no? Voglia. Alessandro, così sei ancora un po' fatto, vero? Sì. No, e abbiamo questa testimonianza di questo ragazzo che si chiama Amedeo, Amedeo Pugliesi, Puglietta, in arte Sakineman, uomo sac, sacker. Piccola Babylon, per lui i luoghi storici di culto e di rosticceria come appunto Ballarò, Vucceria, sono dei luoghi che lui considera piccola Babylon. Adesso vi faremo sentire perché, vi faremo questo estratto da appunto Amedeo. Partiamo un attimo con il servizio che abbiamo realizzato ieri nei pressi di Ballarò, che presentavano l'alfa fetoproteina, gli Hansen e gli Hansen rispetto al mio standard. Allora, se da una parte è vero che l'alfa fetoproteina negli ammalati di cancro aumenta in maniera vertiginosa quando il cancro è attivo, sì, è anche vero che è un parametro un po' particolare che è soggettivo. Sì. Io ad esempio nella mia alfa fetoproteina non l'ho mai avuta più alta di 30, 31. Io 22. Massimo della forchetta, quindi ho una alfa fetoproteina bassa. Quindi quando trovo l'analisi con 13.5 di alfa fetoproteina un po' mi preoccupo. Coincidenza è stata che proprio ho ritratto queste analisi con l'alfa fetoproteina in rialzo, proprio in un periodo in cui avevo un mal di stomaco da circa 20 giorni. In realtà era un virus intestinale. Ma io mi chiago addosso tutti i giorni. Però che... quando ho ritirato le analisi in concomitanza col rialzo delle dall'alfa fetoproteina, che è il marcatore del cancro, e quindi che mi segnalava che c'è un'attività cancerogena. Grazie. Beh, direi che sono sempre testimoni, anche perché il nostro amico è malato di cancro, quindi è praticamente ridotto a mangiare limoni, beve dei succhi strani del tavernello, e lui è fruttariano, quindi mangia solo la frutta che cade quando diventa marcia, praticamente cade dai cachi secolari, dai gente così che ha questo credo qua. Come stai? Ci è passato a trovare anche un nostro amico. Bello. Come va? Tutto a posto? Tutto bene. Allora Bonnie, cosa vuoi? Niente. Niente. Sono venuto qua a salutare. Dai, togliamo, dai. Ho saputo. Cosa? È fuori l'altro. Alla meno. Eh sì. E tu cosa vuoi? Sono una merda, mi devi aiutare. Alla meno. Sì, stai tranquillo. Papà. Stai tranquillo. Di una settimana. Non c'è problema. Tranquillo, ok? Qua a Palermo queste situazioni non esistono, vedi? Quanto ti danno? Ti do la settimana. Perfetto. Grazie anche per questo contributo, Tech. Direi che possiamo fare partire un pezzo che riguarda appunto la serata di ieri, la serata dub a Ballarò. Quindi se Alessandro vuol far partire il contributo, sentiamo anche sto pezzo. Sogni d'oro, ragazzi. Sta arrivando direttamente dalla casa. Non sbaglio un colpo, Alessandro, lo vedo da solo che suona e mi commuovo da solo perché lo sa come funziona. Non fuma la stagnola come faceva Simon. Nicola dorme, si sente male, sogna poco, amore mio, non sai che c'è? C'è che qualcosa è meglio di me. Se Nicola dorme non so che dire, ma se Simon vuole la sveglia la mattina. Usciamo, andiamo in cuciria, facciamo la piccola Babylon. Non siamo in Tunisia, manca poco, Simon, svegliati, è tardi. Andiamo fuori e tiriamo dei petardi. Nicola hai paura, lo so, questo è un suono, era un suono nuovo. Sacchina, ma tu mi dirai perché questa roba la faccio in freestyle. Sacchina, ma dove sei? Babylon senza miglia. Io vengo da Reggio Emilia, Babylon senza miglia. Io lo sai, da Bologna col cuore io faccio freestyle. Alziamoci, dimentichiamoci chi siamo. Alziamo le mani al cielo. Mi sento più sicuro. Yes, yo. Direttamente da Bolo, i migliori in Italia. Simon, Nick, Jacopino, H, Derek, Di Tejo. Yes, yo, come on. In una piccola Babylon della cuciria. This is fire. Come on. Rewind selector. Eccoci qua, siamo a Messina con il nostro Giacinto. Vi presento Giacinto da Messina. Ciao Giacinto. Ciao. Allora Giacinto, io mi sono fatto tutta questa strada perché tu mi hai mandato per via WhatsApp il videomessaggio dove mi dicevi che volevi essere intervistato dal vivo con me, eh? E io sono qui appunto per farti diventare anche un grande pavone per la città di Messina. Esatto, ma non solo, da tutte le parti, perché noi prendiamo da tutte le parti e quindi automaticamente hai la possibilità di diventare veramente un personaggio. Un personaggio veramente educato, sincero, volenteroso dappertutto. Esatto. Allora, iniziamo con la prima domanda. Come passi il tempo tu qua a Messina? Io solitamente lo passo facendomi di coca, crack, di ero, prendo delle pillole, sto bene comunque, facendo dell'informazione anche, non come fa Radio Città del Capo. Questa sera, ragazzi, è l'ora degli scalmanati. Vivono nei fondali marini. Le puoi trovare dentro la sabbia. Stanno vicini perché hanno bisogno l'uno dell'altro. Sono uomini ombra. Si nutrono di rigagnoli d'acqua. Il loro posto ideale è a Citrezza. Le puoi trovare anche a Trabia, a Cireale. Hanno frequentato l'università di Syracuse per trasferirsi in quel di Catania. Gli scalmanati sono personaggi leggendari, come il vitellino Johnny. Era un vitellino straordinario. Aveva delle capacità di contatto, di nemesi. Purtroppo i mangiatori di carne si accorsero della presenza degli scalmanati e fecero del bestiame un'unica grande orda. Non si trovò più quindi bestiame in giro. Gli scalmanati furono costretti a nutrirsi d'acqua. Ora li potete trovare nelle profondità degli oceani e potete gioire con loro della loro meravigliosa avventura. Buon ascolto, gli scalmanati. Beh, direi che anche questo estratto è stato molto molto molto sentito. È un momento anche un po' triste perché ci stiamo avvicinando al Natale. e noi facciamo anche controinformazione, perché a Natale dicono che sono tutti più buoni e che ci si viene incontro. Per noi non è stato così, ogni giorno muoiono dei compagni per le lotte, ogni giorno la gente vera si sbatte e non viene riconosciuta, ogni giorno molti perdono il lavoro, alcuni lavoro non ce l'hanno e quindi sono momenti difficili. Noi ci stringiamo a Natale e promettiamo che il 25 dicembre faremo per la quarta volta un'edizione di una reunion sotto il ponte di Via Libia, quindi siete invitati, chi vuole venire potrà venire a trovarci sotto il ponte di Via Libia. Come sempre non mancheranno i barili d'olio, ci faremo e staremo tutti assieme. Quindi io ne approfitto innanzitutto per salutarvi, mandare a fare in culo quelli di Radio Città del Capo che sicuramente ci ascolteranno, arriverà la nostra voce anche nella grande filodiffusione, quindi la radio è uno strumento di tutti, quindi seguiteci sempre. Adesso manderemo gli ultimi contributi live direttamente qua da Via dell'Emiro. Vi ringrazio per averci ascoltato, compagni, hasta la vittoria sempre, buon Natale anche ai meno fortunati, ci vediamo il 25 sotto il ponte di Via Libia, sempre pugno e cazzo duro. Yeah. La nuova era del terrorismo, queste sono le nuove sette. Sveglio alle 7 la mattina e non ho un lavoro, ma non mi interessa, non lo cerco. Credo la disoccupazione per me oro, qualcosa che butto lì al tempo. Spaccherà i spini, ma io ti spacco in testa gli ischi. Io mi faccio passare, che non mi tesoro, che non so fare una moto. La foto di Buen, questo è il mio lavoro, tesoro. Sta arrivando un progetto e vinterai. Faccio tutto di Pugibol, tu sai che lo fai. Se non ti incazzo, non mi interessa, io sono l'anticristo, lo ribadisco in ogni disco. Porco Dio, mi sento male, a rappare, mi piace parlare, ma soprattutto insultare. Oh. È meglio che state svegli, ragazzi, perché questa sera saltiamo in aria. Ehi, guarda Morchino. Yeah.